ed energia, sfruttando suolo desertico lungo coste che non possono essere sfruttate per altri scopi. Ma più probabilmente la risposta all'approvvigionamento di materia prima vegetale sta negli oltre 2/3 di superficie del pianeta occupati dalle acque e nelle alghe, in particolare le microalghe, di cui esistono decine di migliaia di specie con le più svariate caratteristiche. Per esempio, la percentuale di grassi presenti in questi microorganismi parte da un minimo del 15% per arrivare all'estremo opposto fino al 90%. Alghe come queste potrebbero essere cresciute in grandi vasche o, con la dovuta cautela, nel mare, e una volta raccolte e spremute se ne potrebbe ricavare una grande quantità di oli da trasformare in biodiesel, in lubrificanti e altri prodotti di trasformazione, mentre ciò che ne rimane, costituito per lo più da carboidrati e proteine, può entrare nella produzione di mangimi e altri prodotti ancora. Le microalghe sono organismi monocellulari che si moltiplicano con una rapidità straordinaria rispetto alle piante superiori. Secondo uno studio dell'ENEA del 2012, la produttività di un ettaro coltivato ad alghe, in termini per esempio di biodiesel prodotto, è da 49 a 132 volte quella di un ettaro coltivato a colza o a soia. Purtroppo anche i costi di produzione sono molto più alti e ciò rende il biocombustibile da alghe ancora insostenibile oggigiorno dal punto di vista economico. Ma mentre la ricerca sulla seconda e terza generazione prosegue, le difficoltà emerse nel mondo dei biocombustibili hanno spinto la chimica verde a esplorare anche altre strade. Ne ho parlato con Sofia Mannelli, presidentessa di Chimica Verde Bionet. Sentite. Indubbiamente quello che più bisogna pensare è che la chimica verde e la rinnovabilità viene da materie vegetali, che può essere sia da sottoprodotti o scarti sia da colture dedicate. E allora, se si va a cercare mercati dove serve moltissimo prodotto, siamo indubbiamente svantaggiati. Si creano anche problemi sulla questione del suolo, dell'utilizzo del suolo. Cioè, per i biocombustibili, sostanzialmente si usano quantità tali di combustibili che provare a sostituirli, diciamo, con combustibili di derivazione vegetale è un'impresa immane che crea grandi problemi anche di conflitto nell'uso dei suoli. Avevamo un po' sbagliato forse obiettivo primario, almeno. Diciamo che c'era un incentivo e ovviamente l'industria si muove dove c'è un incentivo, facilmente, più facilmente, non è vero che si muove solo. Adesso si è cominciato a pensare molto di più a tutte quelle che sono la chimica fine, le molecole fine, dove c'è bisogno di alto valore aggiunto e poche quantità. Qui quella chimica verde può realmente competere con la convenzionale, con gli utilizzi del fossile. Ecco, bisogna ricordare che ci sono composti chimici che non costano 1-2 euro al litro, ma magari migliaia di euro o decine di migliaia di euro al chilo, no? Noi abbiamo in questo momento biolubrificanti, bioplastiche, biocosmesi, biocompositi. Per esempio, si sta cercando di sostituire il PET delle bottigliette con un analogo di origine vegetale, il polistirene, che sarebbe poi il normale polistirolo, con un materiale che noi chiamiamo polipla, che è l'acido polilattico, anch'esso di origine da amido vegetale. E si ci fanno proprio delle schiume, no? Con questo, ma non con sono questo delle schiume, ma abbiamo fatto proprio il packaging, abbiamo fatto delle cassette per la marineria San Benedetto del Tronto, abbiamo avuto un successo incredibile, lì hanno frigoriferi, hanno il contatto con l'acqua, i pesci, eccetera, nessun problema. Sono compostabili, quindi vanno nell'umido. Una cosa è certa, abbiamo bisogno di reinventare migliaia di materiali diversi, a partire non più dal petrolio, ma da materia vegetale. E oggi la chimica verde sta muovendo i primi passi in questa direzione. I lubrificanti di origine fossile sono tra i primi candidati ad essere sostituiti da analoghi di origine vegetale. Luca Lanzeri, del CRA, Consiglio di Ricerca per le Colture Industriali. La natura produce già oli molto diversificati in funzione della loro composizione in acidi grassi e in funzione del fatto che esistono acidi grassi monoinsaturi o poliinsaturi. Sono una terminologia che conosciamo perché riguarda tipicamente l'alimentazione, non a caso. Esatto, no? Sì, ma più o meno, anzi, il problema è che molti degli oli che usiamo in alimentazione potrebbero benissimo essere usati anche come lubrificanti. Certo. In questa ottica, quindi, la più grossa